dura quanto pare. Ti sei rinchiuso come un cardinale nel conclave. Per la fumata bianca qui c'è da aspettare. Ma tu hai chiuso la porta e buttato via la chiave. E non è più il coltello dalla parte del manico. Nei tuoi occhi spenti vedo soltanto il panico. E te ne stai seduto sul toro meccanico, bello rilassato aspettando un trauma cranico. Perché chi si assenta troppo smette di mancare. Ed io sono quello che vi elimina dal cellulare. Dopo sei mesi che te la stai a tirare, qui prendo la decisione di mandarvi a cagare. E chiedo scusa se faccio le regole qui a casa mia. Forza dai, fatti una dose di ironia, perché cenere quello che siamo. E qui dentro brucia il fuoco di un vulcano. Sei troppo il capo po, po, po, po, po, po, po. E tutti vogliono essere il capo po, po, po, po, po. Sei troppo il capo po, po, po, po, po, po, po. E tutti vogliono fare il capo po, po, po, po, po. Falsa amicizia che blocco tipo spam, che durano meno di una storia in Instagram. Forse perché tenga paura di pagliaccio. Tu cerchi da vita di quello che danno a braccio. E portano una maschera solo per febbrillo. Pacche sopra le spalle, quattro pica puzzilla. Me che sta da solo, da sta città. Cresciuta amici amici, mon culo fa. E che sia chiaro, chi trova un amico trova un tesoro. E ancora più chiaro, chi perde un fumo trova una maniera d'oro. Perciò saluti fantasma tu passata, non si torna a rete, so pacchi dalla sete. I so che pe cazzo e vo manna a fanculo. So romante che un fazzo cu cuore di sicuro. Sei troppo il capo po, po, po, po.